qui online questa volta. Abbiamo nuovamente il buon vecchio Pulsar nella, diciamo, seconda metà della quinta puntata di Ginnastica per Sale d'Attesa. Ma prima di tutto questo, iniziamo con la nostra solita sigla a Ginnastica per Sale d'Attesa, puntata del 20 novembre, perché giustamente mi ricordano che ogni tanto bisogna dire in che mondo e in che giorno siamo. Quindi 20 novembre, Connecta Milano Sud, diciamo Chiesa Rouge Barona, e mettiamo i Fugazzi per iniziare con la puntata. Siamo. Eccoci qua, ci siamo come al solito, grazie ai Fugazzi per averci regalato questo meraviglioso angolo di musica. Come dicevamo prima, questo è il 20 di novembre, questa è Ginnastica per Sale d'Attesa, siamo finalmente in onda, la Connecta è Milano Sud, quindi abbiamo Barona in collegamento con il buon dottor Pulsar. Qui con me per una volta non c'è il buon Piccarasi, ma c'è Gigi Proiettili, niente meno che. Ciao a tutte e tutti. In regia, quindi possiamo dire che a sto giro siamo una buona rappresentanza dello Zami Pop Lab di Rap Caverna Posse. Non possiamo dire altrettanto dei Pulsar and the Pulsar 5, ma solo perché non siamo all'altezza. Lo ricordiamo, e quindi cercatevi ognuna di queste cose che ho detto, andate a cercarvele perché insomma siamo belli, simpatici, carini e coccolosi, e anche no. E direi a questo punto, visto che per una volta, come dire, la puntata non è una puntata totalmente nuova, ma riparte da un inizio ormai di un mesetto fa, partiamo, se tu sei d'accordo Pulsar, con una mini recap di dove eravamo. Ovviamente, per chi si fosse perduto la puntata precedente, abbiamo affrontato il tema della memoria collettiva, in particolare la teoria di Maurice Halbwax, un sociologo francese di primo Novecento, che costruì questa teoria della memoria collettiva. Secondo lui la memoria non è un fenomeno individuale, i ricordi non sono qualcosa di pertinente alla coscienza delle singole persone, ma sono come un flusso che attraversa la società, incanalandosi in reti nelle quali gli individui sono come dei nodi attraversati da questi flussi, e ogni individuo è compreso all'interno di un quadro sociale della memoria, come lui lo chiamava, un gruppo di, diciamo, un gruppo all'interno del quale vengono custoditi, vengono continuamente riattualizzati degli elementi comuni del ricordo. Si può andare ad esempio dal gruppo della classe, della scuola, al partito politico, al gruppo di lavoro, alla setta religiosa, e chi più ne ha chi più ne metta, insomma. Ecco, dicevamo infatti che ognuno può essere inserito in più quadri, quindi, come dire, effettivamente ognuno di questi nodi intreccia più flussi, no? Giusto? E che in questo un'altra, diciamo, delle grandi intuizioni che ci ha dato il chiacchierare con il buon dottor Jacopo Pulser era che intanto che è molto difficile muoversi fra un sacco di termini, perché tante cose che sono intuitive ogni volta che vengono riscomposte aumentano di significati, e quindi poi ogni pezzo è ripensabile e ogni nostro pensiero è ripensabile, quindi ogni nostra memoria è inseribile in tante altre memorie. E una delle cose che delle grandi intuizioni che erano arrivate da qui era che il ricordo e la memoria sono tutt'altro che fissate, no? Cioè che non sono identiche a se stesse, ma sono effettivamente, si modificano poi in base alle necessità, agli interessi, alle composizioni di ognuno di questi gruppi. Esattamente. E quindi in realtà, se non ricordo male, parlavamo anche di memoria vissuta, che era una memoria appunto non storica, che è una fuffa, lo possiamo dire, la memoria storica, sono memorie, quindi il plurale, ed è una memoria collettiva, quindi ognuno di questi diciamo ricordi è in realtà reinseribile in un sacco di questi, in diversi di questi flussi. Assolutamente. Per poter fissarsi all'interno della memoria di un gruppo, un ricordo deve poter essere, come dire, deve poter essere proiettato in una dimensione spaziale e temporale. Che cosa significa? Significa che nello spazio i ricordi vengono proiettati, come ad esempio all'interno di una città, un gruppo di cittadini che abita un quartiere proietterà i ricordi della propria comunità sugli spazi vissuti all'interno di quella città. Cosa significa invece nella dimensione temporale? Significa che per poter essere richiamati alla memoria, i ricordi hanno bisogno di agganciarsi a dei concetti, o per meglio dire delle scansioni temporali, concordate socialmente. Parliamo banalmente della scansione in minuti, secondi, ore, giorni, settimane, mesi, tutti fenomeni, come dire, che sono dati dalla natura, l'alternanza del giorno e della notte, tutti fenomeni che sono, come dire, esperibili da tutte le persone, sia io sia la persona che parla una lingua e fa parte di una cultura diversa dalla mia, ci rendiamo conto che la luce del giorno lascia il posto alle ombre della notte. Sì, sì. E quindi c'è questa divisione che è condivisibile da tutti, e quindi i ricordi possono agganciarsi a questi elementi per poter essere ripercorsi attraverso la memoria. Gli individui possono ripercorrere con la loro memoria tutte queste scansioni fino a ritrovare i ricordi che cercano. Ed effettivamente, come dire, molti di questi schemi anche temporali sono effettivamente dati, abbiamo detto il giorno, la notte, ma in realtà anche i cicli lunari, che più o meno sono un mesetto, diciamo, quindi delle cose che effettivamente l'essere umano da sempre ha visto succedere, o il ciclo delle stagioni, quindi come diciamo i primi geli, le prime gelate, eccetera eccetera. Ma se non ricordo male, avevamo detto che in realtà anche a questo scopo, diciamo, diverse istituzioni nel corso del tempo avevano creato degli schemi temporali, fra cui per esempio quello del calendario con i santi, no? Che ogni giorno c'era un santo diverso, e quindi in questa maniera, diciamo, si entrava in uno schema, anche i propri ricordi rientravano in uno schema che poi riusciva ad essere condiviso da un grosso gruppo sociale, e che di fatto ne costituiva poi delle fondamenta non male, insomma, perché se ci pensiamo adesso, magari San Gerolamo non saprei dire quando è, però sicuramente noi tutti abbiamo delle memorie rispetto ai Natali, per esempio, e cioè il 25 dicembre, che sia il 25 rispetto al 26, tutto sommato è un po' una... come dire, è una cosa che adesso ci sembra stabile e fissa, ma non necessariamente lo è. Potenzialmente, se noi fossimo cinesi, magari avremmo in mente il Capodanno cinese come un momento che, certo, ovviamente so che cosa stavo facendo al Capodanno cinese dell'anno della scimmia. Io invece non lo so, per esempio. In realtà avevamo accennato e avremmo poi sviluppato, speriamo insomma di sviluppare un po' quello anche oggi, il secondo risvolto, no? Perché a questo punto la memoria è una significazione del presente, ma è anche un po' la continuità fra il passato e il futuro, e quindi io credo che oggi, correggimi se sbaglio, parleremo, diciamo, di creazione anche di, come dire, di quella che poi è l'identità, diciamo, come finale è l'identità, fondamentalmente. Per arrivare alla costruzione dell'identità dobbiamo passare attraverso quello che è il flagello di molte discipline, che è la cultura. Esattamente, esattamente. E ovviamente io, quando ho scritto questa tesi, non avevo ancora, diciamo, studiato un po' di cose che ho affrontato in seguito, che sto studiando anche adesso per la magistrale, e veramente ho scoperto un sacco di cose che avrei potuto diciamo riprendere da altri autori, altri testi di riferimento molto più significativi di altri che invece ho usato io. Quindi diciamo che rimane sempre un lavoro, una ricerca imperfetta, e sempre, diciamo, come posso dire, implementabile da più lati, da più discipline, da più approcci e quant'altro. Infatti, questo ricordiamo, perché effettivamente era una delle cose che non avevo raccontato, cioè che non avevo ricordato, è che ognuna di questi, diciamo, stimoli che arrivano dal dottor Pulsar, arrivano dal dottor Pulsar proprio perché il dottor Pulsar, con questa tesi, cioè quella che stiamo raccontandoci un po' oggi, che è molto interessante per, diciamo, la permeanza che ha questo tema all'interno del mondo, ma anche perché è piuttosto divertente e molto multidisciplinare, arriva dalla tesi con cui il signor dottor Pulsar è diventato dottore. Yeah. Capito? Non è che abbiamo qua, stiamo ballando la samba. A questo punto, come viriamo, come facciamo virare? Diciamo, questa più o meno è un po' il riassunto della puntata precedente, diciamo, pressappoco. Abbiamo iniziato, avevamo anche accennato ad un paio di cose su, come dire, come la religione si insinua in tutta questa discussione. Probabilmente a suo modo ne riparleremo, ovviamente ognuna di queste cose sarà riattraversata quest'oggi. E quindi, non so, dammi tu un input, partiamo con una traccia? Sì, mi sembra un'ottima idea. Allora, partiamo con una traccia, una signora traccia, che ci è stata proposta da Pulsar, Ipse, che si chiama How I Write, ed è di un MC's di fama internazionale, possiamo dire, nato a Brooklyn, se non erro, ormai 50 anni fa, o se non 50 anni fa più o meno. Killa Priest, per l'appunto, questa è How I Write. A questo punto ce l'ascoltiamo, e ringraziando Pulsar per l'ottima selezione musicale. When they came into his room, they saw him sitting up in bed, dazed. And he ignored everyone who was standing there. All of them were saying, what is it? What is it? What happened? And instead, he reached into his bag, and he pulled out a book. And he closed his eyes, and he opened that book at random. And he pointed to a passage, and he opened his eyes, and he read it, and he shook his head, and he closed the book, and he put it back in the bag, and then he opened his eyes and said, when I'm all alone, my chair's a throne. My desk is ruins found from Soviet Union, made of marble and stone. My hat is a crown. Finally, my destiny's found. My journey begins. Pick up my pen like a brush. Start to scuff art galleries of galaxies. Once my pilot is squeezed, the pilot can see. My crown now grows great wings. The music sound is a breeze. I begin to lift off like a king on the back of a dragon. Anything I imagine can be seen in my graphics. Tablets of magic, telepathic at the dawn of the Sabbath. When I write Mount Sinai, I lift up to the heavens. God passes judgment to gather other brothers. My mathematics emanate lights from the mysteries of divine thought. 700 new Torahs go forth if I give them the Quran. Show them the here and the beyond. From light years to eons in space, there's a great mountain where all the dead climb, trying to make it to the top before the man tiger gouge them. Beyond that, invisible castles where all the pharaohs and all the Mayans talking and dining. And Malcolm X walks in with Mega Evans, whispers to King Nat Turner and Harriet Tubman the scene. And Obama's grandmother's bussing, yelling to everybody, we have our first black president. The heavens commenced to party, acting up, standing on tables, dancing. Marcus Garvey holding up our Molly. I see the sinister smile of Haile Selassie. I begin to write more and more. My mind was sore. I can see the Shekinah giving the Gevorah, the Hissad and the Tafrat, the Melkut, the divine order. My mind's aura, my body swim across the cosmic waters. Divide the night from the day, calling the moon from out of the grave. We were a nation before we were slaves. Remember that. This is how I write. Write. This is how I write. This is how I write. Through a ball needle, I can see all people. Absorb soul like a cosmic eagle. Landing on a sharp surface. Many things to interpret. The mind is perfect. One of God's greatest designs. Since the dark gray curtains that hangs through the 7,000 universes. How I write is like day turning to night. From beige to light, from the grave to a life. From a babe to those pipes, from rock showers to meteor storms, from watchtower my graffiti is formed. I sit with the cosmic Egypts, Nefertiti on my arms. I write with the whole city in my palms. I give you an updated song of songs. A King David arriving on a spaceship. Scribes try to trace it, scribble erase it. I show you how far I can take it. Beyond Mars to places that are sacred to other languages of ancient shit that came prince. The vegetable rules came and went celestial. Through concentration, I can see the constellation. This is my revelation. Siamo là. Eccoci qui, siamo tornati. How I Write di Killa Priest. Ricordiamo, per chi non avesse preso appunti prima, siamo tornati sempre con Gigi Proiettili in regia e Pulsar in collegamento dalla Barons, che ha un doppio occhiale in questo momento per essere più intellettuale ancora di com'è. E in realtà questa traccia non è stata solo scelta perché ha un flow di un certo calibro, comunque, che non è male, ma la scelta in particolare il nostro ospite perché in qualche maniera, in realtà, pur probabilmente senza saperlo, Killa Priest si ricollega a diversi dei discorsi che abbiamo fatto. È vero, Pulsar? Sì, tra l'altro l'idea che avevo avuto era di tradurre un attimo il testo che abbiamo ascoltato dall'inglese all'italiano. Un appunto che voglio fare prima, in modo da poter contestualizzare bene quello che viene detto, è che Killa Priest diciamo che come dire, fa molti riferimenti biblici piuttosto che alla mitologia, piuttosto che a un sacco di cose che si rifanno a questo immaginario. Però non diciamo che lui fa riferimento diciamo ad un certo sincretismo religioso, non è un credente, o meglio non in senso stretto, anzi probabilmente cristiano, ma forse mi sbaglio. E tra l'altro lui in certi testi sostiene comunque, fa riferimento a una comunità di cui lui si sente parte, che è quella degli ebrei neri d'America, Black Hebrews, esatto, of America, esattamente, un'etnia afroamericana giunta appunto in America attraverso la schiavitù, e che discende appunto da quelle che sarebbero le antiche tribù israelitiche emigrate in Africa dopo la diaspora, dopo il crollo del regno di Giuda e la deportazione delle 12 tribù di Israele. Dunque, va bene, cominciamo. Quando sono solo, la mia sedia è un trono. Il mio tavolo è fatto da rovine dell'Unione Sovietica, fatte di marmo e pietra. Il mio cappello è una corona. Finalmente il mio destino è trovato. Il mio viaggio comincia, prendo la penna. Come un pennello inizio a dipingere gallerie d'arte e galassie. Una volta che il colore è spruzzato, il pilota può vedere. La mia corona ora sviluppa delle grandi ali. La musica, il suono della musica è come una brezza. Comincio ad elevarmi come un re sul dorso di un drago. Tutto ciò che immagino può essere visto nelle mie grafie. Tavole di magia, telepatia all'alba del Sabbath. Quando scrivo, il monte Sinai si eleva ai cieli. Dio attraversa il giudizio. La raccolta dei fratelli. Le mie matematiche emanano luce dai misteri del pensiero divino. 709 Torah avanzano. Se gli consegnassi il Corano, consegnerei loro la mano dell'oltre. Da anni luce a eoni. Nello spazio c'è una grande montagna dove tutti i morti scalano, cercando di raggiungere la cima prima che la tigre li prenda. Oltre a questa, castelli invisibili dove tutti i faraoni e tutti i Maya conversano e cenano. E Malcolm X entra con Medgar Evers, sussurrano al re. Nat Turner e Harriet Tubman vengono visti. E la nonna di Obama inizia ad urlare a tutti. Abbiamo il nostro primo presidente nero. Il paradiso comincia a festeggiare. Tutti salgono sui tavoli danzando. Marcus Garvey Bob Marley solleva Marcus Garvey. Vedo il sinistro sorriso di Haile Selassie. Comincio a scrivere sempre di più. La mia mente è sofferente. Per qua c'è una frase che non è molto chiara. Sì, scusami, ti fermo un secondo. Giusto, questo questo lo diciamo per tutti quelli che non ascoltano l'hip hop e che continuano a sostenere nel 2020 che il 98% dei riferimenti sono di strada, pistole, ma che pacco è l'hip hop. Cioè, non so se capiamo il livello e la quantità di citazioni che uno potrebbe aprire 400 libri solo ascoltando il testo di questa canzone. Scusami Pulsar, ti ho interrotto, però cioè, direi che mi sembra uno degli esempi più calzanti di quanto sia proprio un vile luogo comune senza alcun fondamento. Vai, torna pure a dire le cose serie, che io dico le mie boiate ogni tanto, scusami. Grazie Chiara, no, hai fatto bene. Quindi, il mio corpo nuota attraverso le acque cosmiche, dividendo il giorno dalla notte, la notte dal giorno, chiamando la luna fuori dalla tomba. Eravamo una nazione prima di essere schiavi, ricordalo. Poi c'è il ritornello che riporta solo "This is how I write", così è come scrivo. Attraverso la cruna di un ago vedo tutte le genti, assorbite, non si capisce bene, come un'aquila cosmica atterrata su una superficie acuminata. Molte cose sono da interpretare. La mente è perfetta, uno dei progetti più grandi di Dio. dai grandi sipari di grigio scuro che pendono attraverso i 7000 universi. Come scrivo, ciò che scrivo è come il giorno che diventa la notte, dalla caligine alla luce, dalla tomba alla vita, dal bambino agli anziani, dal rock showers, docce di pietre che io sì, traducerei, che italiano perfetto, tradurrei come lapidazioni a media storms che tradurrei come tempeste mediatiche. From Watchtower, dalla torre di colui che osserva, boh, il mio graffito, i miei graffiti si formano. Siedo con gli egizi cosmici, Nefertiti tra le mie braccia. Scrivo con l'intera città nei miei palmi. Vi do una versione aggiornata, vi do una canzone aggiornata dei salmi di Re Davide che arriva su un'astronave. Gli scribi cercano di tracciarla, di scarabocchiarla, di cancellarla. Vi mostro quanto lontano posso portarla, oltre Marte, verso luoghi sacralizzati, verso altri linguaggi di antiche civiltà. E poi qua c'è una parte che non è molto chiara. Attraverso la concentrazione posso vedere la costellazione. Questa è la mia rivelazione. Così è come scrivo. Scusate le Non male, imperfezioni, vabbè. preciso anche su internet, questa è la versione diciamo un po' più chiara. Ci sono delle parole non molto chiare e ho cercato di riportare un po' più o meno tutto, ma credo che sia chiaro più o meno la quantità, come diceva Chiara prima, di riferimenti, di metafore e anzi, magari adesso capiamo un attimo anche quali sono. Esatto, volentierissimo. Sì, comunque la mia scrittura da interpretare è la barra che forse riassume di più questa traccia e forse è da interpretare lui attraverso la sua scrittura. E quindi dicevi, questa canzone, questo brano di questo rapper, diciamo del 2020 anche del 90, ma anche del 2020, ha in una qualche maniera giace sulle spalle di un sacco di altri elementi a lui precedenti. Mi sembra di capire, no? Assolutamente, quello che è originale è la maniera in cui li collega, ma andiamo a vedere un po' più da vicino. Ad esempio, lui comincia a parlare del Monte Sinai che viene elevato verso i cieli, un luogo che diciamo, ha una valenza simbolica molto forte, soprattutto diciamo, per il gruppo culturale degli israeliti. Che quindi passa attraverso una forte mitopoiesi, diventa un simbolo molto potente, ecco. Quindi c'è questo Ecco, richiamo infatti poi anche. magari dopo entriamo più nel dettaglio della mitopoiesi, che mi sembra Assolutamente. un elemento da approfondire. Andiamo avanti, scusami, continua ad Viola, in interromperti. breve, la mitopoiesi è la costruzione di un simbolo. Poi c'è anche un riferimento ai testi sacri, la Torah, il Corano. Oltre a ciò, ci sono dei riferimenti a tutta una serie di personaggi afroamericani che hanno fatto parte dei movimenti per i diritti civili e ancora prima dei movimenti antischiavisti come Malcolm X, Medgar Evers, Nat Turner, Harriet Tubman. Sono stati tutti attivisti, alcuni schiavi liberati che hanno combattuto contro la schiavitù nell'Ottocento negli Stati Uniti, fino ad arrivare a Obama, la nonna di Obama che festeggia per l'elezione del primo presidente nero degli Stati Uniti. Vengono richiamati Bob Marley, Marcus Garvey, Haile Selassie, tutti personaggi un po' simbolici del rastafarianesimo e quindi insomma in generale tutti personaggi divenuti un po' simbolici diciamo, della schiavitù afroamericana, degli schiavi neri portati nelle colonie americane degli inglesi. Quindi, Tant'è che dice siamo, prima di essere popolo eravamo schiavi? Correggimi se sbaglio. esattamente, c'è anche questa affermazione, c'è un forte parallelismo se notiamo tra la diaspora delle antiche tribù israelitiche e la diaspora dei neri d'Africa nelle colonie americane, che viene un po' ripercorsa lungo tutto il testo. Si parla anche di Re Davide che arriva su di un'astronave. Qua sbucchiamo quasi nella fantascienza, se vogliamo, anche un po' nel trash, diciamo, perché Esatto, non lo stavo dicendo, ma ci sono dei giustamente. richiami che personalmente nemmeno io riesco a comprendere appieno, però credo che una cosa che mi attira molto appunto è analizzare i testi, ascoltarli finché questi molteplici livelli di significato non diventano chiari. Questa è una cosa che personalmente mi piace molto nel rap, nei testi che ascolto, nella musica in generale, ecco. Gran verità, gran verità. Quindi effettivamente diciamo che, come dire, la prova che ognuno di questi elementi tendenzialmente molto lontani nel tempo e anche nello spazio rispetto a lui che è nato a Brooklyn, cioè il Monte Sinai, il Corano, tutta una serie di riferimenti, no, alla schiavitù, eccetera, eccetera, rimangono, ciò nonostante si ripresentano nella individualità di quest'artista tramite. Che cosa se non le memorie collettive e i quadri sociali di cui parlavamo prima? Cioè, se così non fosse, il qui e ora di Kill Priest Brooklyn sarebbe probabilmente veramente composto di piccole banalità o grandi o meno successi o drammi quotidiani del buon Killa, e invece, una barra dietro l'altra come dire, si ricrea questa grossa narrazione. E a tal proposito direi che ci lanciamo verso alcuni diciamo, degli elementi successivi a questo punto, no? Assolutamente. Quindi io non so, per esempio, pe penso che sicuramente vorrei che parlassimo di quella mitopoiesi di cui parlavi prima, ma più in generale vorrei a questo punto, diciamo, noi abbiamo, per fare una breve carrellata, noi abbiamo parlato di memoria individuale, memoria collettiva, coscienza individuale, coscienza collettiva, memoria individuale, memoria collettiva. Memorie storiche, eccetera, eccetera. A questo punto, a un certo punto, nella tua tesi si come dire, si cita la memoria culturale, no? Che è come un arricchimento di ognuna delle cose che abbiamo detto fondamentalmente fino adesso. Sì, si potrebbe dire che la memoria culturale è una, come dire, è un elemento che fa parte di una teoria di un egittologo, Jan Assmann, che negli anni 90, più o meno mezzo secolo dopo Maurice Halbwachs, cercò di riprendere il suo impianto teorico, tentando di allargare questo discorso ad una più ampia teoria sulla cultura, sulla trasmissione culturale, cioè su come soprattutto le civiltà antiche, essendo lui egittologo, trasmettevano significati. Lui sosteneva che queste civiltà fossero tenute insieme da quella che è una struttura connettiva fatta di un insieme di esperienze, di attese, di conoscenze comuni alle persone che facevano parte di queste culture. Ovviamente lui prendeva le culture come dei veri e propri gruppi, dei quadri sociali molto allargati. Ovviamente, qual è il confine di una cultura? È una nozione sottoponibile a molte critiche e sicuramente è stato criticato anche lui. Tuttavia, è uno Diciamo, la strumento. cultura, tra l'altro, è uno degli elementi probabilmente più, come dire, teorizzati e in più maniere diverse nel corso delle storie di tutte le scienze umane, direi senza eccezione. E quindi ovviamente anche quella dell'egittologo Assmann è, come dire, confutabile da un sacco di altri, ma è anche tutto sommato verificabile sotto tutta una serie di punti di vista. Scusami, dicevi? Che quindi appunto questo piano di esperienze, azioni e conoscenze. Sì, è funzionale al mantenimento di un legame all'interno delle singole culture. Asman riprese appunto la teoria della memoria collettiva di Halbwax, come dicevamo. Egli tuttavia non fece tanto la distinzione tra memoria vissuta e memoria storica, come aveva fatto Halbwax. Tra l'altro Halbwax aveva anche detto che la storia è una cosa totalmente diversa dalla memoria, mentre invece Asman un po' va contro questa tendenza, in quanto, beh, adesso ci arriviamo. Egli fece una distinzione tra memoria culturale e memoria comunicativa. La memoria comunicativa è un piano di quella struttura connettiva di cui parlavamo, che si compone degli elementi che ritornano, sono ridondanti nella quotidianità di tutti i giorni all'interno di un gruppo culturale, diciamo, di appartenenza. Mentre la memoria culturale invece consiste di quegli elementi che si trovano più all'origine, alle fondamenta di questa continuità intrinseca alla cultura di cui parliamo. Egli riprese parlando del confronto con Halbwax diceva che la tradizione non fa parte della memoria culturale. Invece Asman sosteneva che la tradizione è un corpus di ricordi oggettivati. Quindi non c'è tanto il bisogno di separare il concetto di storia, in questo caso di tradizione, che però Halbwax un po' ricomprendeva nello stesso concetto, rispetto alla memoria, ma si possono trovare, diciamo, in uno spettro graduato, ecco. Non sono elementi totalmente alieni tra di loro. Asman riprendeva il lavoro di questo Vansina, che era un etnologo, il quale aveva teorizzato la cuna fluttuante, un floating gap, cioè un concetto che consiste in uno spazio temporale che si trova tra il momento presente, tra l'attualità, e l'epoca delle origini, di una cultura, di un popolo, di un'etnia, di una civiltà. E tuttavia questo gap, questo floating gap, si allarga, si ingrossa, si allunga al passare del tempo. Più passa il tempo, più questo si allunga. E com'è che si fa a prendere coscienza di questo allungarsi? Attraverso strumenti come ad esempio la genealogia, che nelle civiltà serviva appunto a misurare questo avanzare del tempo e della discrepanza che si creava tra il tempo delle origini e il tempo presente. Questo perché tendenzialmente ogni, diciamo, popolo che si è distinto nel corso della storia tendenzialmente ha nel mito della fondazione uno dei cardini, no, della propria identità, e quindi non a caso, se noi pensiamo ma in realtà ad un sacco di popolazioni diverse, la stessa Italia, quando è stata avendo una storia molto lunga, ma non in quanto tale, in quanto Italia, diciamo, come penisola aveva una storia molto lunga, ma come Italia non tanto, e la questione del risorgimento è stata particolarmente spinta, ed è evidente che man mano ci si sposta dalla, così come, non so, le grosse religioni hanno un momento fondante, no? E lo stesso, questo qua mi sto lanciando, non so se sto facendo bene, ma lo stesso, prima di essere popolo eravamo schiavi, a suo modo è un fondante di tutti i grossi movimenti come le Black Panthers, ma non solo, insomma, dell'ambiente afroamericano, molto spesso hanno, per esempio, giustamente, la schiavitù come momento fondante anche della propria identità. E quindi per ognuna di queste, e in passato forse altrettanto, il fatto, come dire, il momento fondante era abbastanza centrale. Chiaro che man mano che passa il tempo, in mezzo ci sono state tante cose, questo il floating gap fondamentalmente, no? Che man mano ti sposti, più questo momento fra il qui e ora, cioè l'oggi, la mia quotidianità e il momento delle radici, si perde un po' questo legame? Esattamente, ma questo legame diciamo che non è che si perde, ovviamente muta nel tempo, ma perché muta? Perché la memoria culturale, che è la memoria appunto di queste origini che vanno perdendosi negli anfratti del tempo, viene mantenuta non dalle persone comuni, diciamo, ma da quella che è un'elite socioculturale che si crea all'interno delle società. Ogni società ha, diciamo, ogni cultura, ogni gruppo culturale ha la sua elite di riferimento. Prendiamo ad esempio la Chiesa Cristiana Cattolica, il clero. Il clero è un'elite di questo tipo. Il clero ha preso il controllo di questa memoria delle origini e si è arroccata sulle sue posizioni ed è diventata custode di questo corpus di memoria che veniva mantenuto all'interno della società. O banalmente nella Cina imperiale questa memoria veniva mantenuta dai mandarini. Per accedere a questo tipo di memoria che veniva tenuta nascosta alla popolazione comune, bisognava passare attraverso dei veri e propri esami di stato in modo da potervi accedere, da poterla gestire effettivamente. A questo punto vorrei arrivare ad una questione. Abbiamo parlato di memoria comunicativa e memoria culturale. Ma questa memoria culturale come fa, quindi, abbiamo detto che viene gestita da un'elite, come fa quindi a perpetuarsi? Ci sono diversi elementi da tenere presente. Il primo è che si ha una coerenza. La coerenza è un elemento comune a tutte le culture. La coerenza è quella che permette a quelle che Alvax chiamava immagini di ricordo e che Assmann invece chiama figure di ricordo, perché dotate di una maggiore forza narrativa, di perpetuarsi. Ciò che permette loro di perpetuarsi è, nelle società più antiche, senza la scrittura, basate sui rituali, quella appunto la coerenza rituale, cioè il ripetere attraverso delle cerimonie e dei riti una continua situazione in cui i significati vengono continuamente tramandati in maniera invariata, ecco. Quindi nelle società prescrittura, o comunque che non facevano della scrittura il loro punto focale, la funzione del, diciamo, questa funzione è perpetrata dal rito. Quindi la ritualità sia delle cerimonie che probabilmente anche della narrazione, nel senso che in realtà a sua volta, correggimi se sbaglio, tipo gli aedi, tipo i griot francesi, i griot africani, tipo i, come si chiamano, i menestrelli, i cantastorie, facevano riferimento a dei blocchi fissi, no? Perché questo un po' perché aiuta la memoria, un po' perché fissa quello che stai dicendo, no? E quindi effettivamente la memoria si costruisce di ripetizione, e non essendoci un elemento che rimane lì a disposizione, tipo un testo scritto, e questo cambia di brutto a partire dalle società che utilizzano la scrittura come strumento fondamentale, come dire, la ripetizione, continuatività costituisce, ovviamente, se tutto questo funziona, se il discorso è coerente, perché se ci sono dei pezzi che cozzano fra di loro, evidentemente suppongo che questo mandi un po' in sbattimento, ma continua tu, arrivami in soccorso. Ma questo, sì, appunto, come dicevi tu, la scrittura è un elemento che cambia veramente le carte in tavola, ma vediamo bene come. Non è tanto la scoperta della scrittura a cambiare questa coerenza. Come dicevamo, il rituale si basa sulla ripetitività di certi gesti, certe formalità. La scrittura nasce, viene utilizzata per diversi impieghi economici, politici, poi anche successivamente rituali. Vengono cominciati a essere scritti dei testi sacri, dei testi importanti per le società, e attraverso la scrittura vengono fissati per iscritto dei concetti in modo da essere perpetuati. Tuttavia questi concetti non vengono esattamente perpetuati. Perché? Perché la scrittura, i testi, nel passare del tempo, nel corso del tempo, spesso i loro significati vengono dimenticati, vengono confusi, non sono più chiari come quando sono stati scritti, in base a questo all'evoluzione della società. Di conseguenza si presenta la necessità di rivitalizzare questo senso, di ricostruirlo, di reinterpretarlo. È da qua che nascono quelle cosiddette culture esegetiche, l'esegesi, cioè la pratica di recuperare dal testo il suo significato originario, ed è attraverso il filtro dell'esegeta o di colui che si pone come medium per il recupero di questo significato che diventa in seguito possibile poter accedere a questo significato nascosto. Mi viene in mente un esempio che non ha riportato nella mia tesi, ma ad esempio quando Lutero nel 500 ha sostenuto che la Bibbia deve poter essere letta senza la mediazione di un chierico da parte della popolazione, questa è stata una vera rivoluzione al tempo, perché significava uscire dal quadro della memoria dei chierici, della Chiesa, che avevano questo controllo sulla memoria culturale. Era una specie di riassunzione della memoria culturale da parte del popolo. Certo, ma infatti anche a me stava venendo in mente, effettivamente io penso a quanti si ritengono, adesso qua siamo sempre etnocentrici purtroppo, e facciamo degli esempi che riguardano la nostra... come dire, la nostra cultura, il nostro background di fondo, che è quello di uno stato, diciamo, in mano alla Chiesa Cattolica, però effettivamente il testo sacro del cristianesimo, diciamo, è la Bibbia nel Vecchio e Nuovo Testamento, per quanti si ritengano, come dire, detentori di una cultura cristiana. Io presuppongo che il numero di persone che abbiano letto tutta la Bibbia sia molto basso. Prima di diciamo, facciamo della riforma protestante a cui stavamo facendo riferimento, oltre a tutto la Bibbia era solo in latino, quindi a maggior ragione il numero di persone che le aveva lette evidentemente era ancora più ridotto. Quindi effettivamente le persone che avevano letto questi testi erano quelli che poi avevano di fatto un compito abbastanza importante, cioè quello di trasferire tutto o parte di quello che vi era contenuto al resto della popolazione, giusto? Esattamente. Quindi fondamentalmente io a breve, forse, non so, mi fermerei per mettere un altro brano, magari, così poi facciamo il punto, però... Secondo me a questo punto poi, come dire, il punto finale è capire come, diciamo non il punto finale, uno dei punti a questo punto è capire come come da questi testi e dal fatto che appunto non tutti avessero totale accesso al suo contenuto, poi si può creare di fatto una forma non indifferente di potere, tra l'altro. Quindi, insomma, a un certo punto c'è chi decide precisamente quali sono i canali, quali sono i binari che deve seguire una determinata narrazione e quindi la determinata creazione di memoria culturale, giusto? Giustamente. E cosa facciamo? Mettiamo una traccia? Lo facciamo? Mettiamo una traccia a questo punto, visto che siamo tutti in famiglia e diciamo qua c'è una buona rappresentazione della famiglia della Rap Caverna Posse, c'è una nuova uscita che ci sembrava doveroso far ascoltare, è quella diciamo di Cesa One con il buon DJ Libero al beat. La traccia è appena uscita, si chiama Il piatto è servito e noi ve la facciamo ascoltare.

di una determinata narrazione delle fondamenta e di una ritrasmissione alla comunità che se lo, diciamo, che trova in quel mito fondante il suo atto di nascita, no? Un po'. Sì, dunque, stavamo appunto parlando del passaggio alla coerenza testuale e stavamo parlando appunto di come sorge la cosiddetta cura del senso, cioè una continua reinterpretazione dei testi sacri, dei testi fondanti, che si può vedere un po' attraverso il filtro della teoria di Halbach come una riattualizzazione appunto del passato in funzione delle necessità presenti, in questo caso delle necessità delle nostre care elite socioculturali di cui parlavamo prima. Esattamente. Quindi, insomma, attraverso questi testi, questi nuovi testi che venivano, questi testi che venivano prodotti, formarono nuovi meccanismi di produzione del sapere che appunto riprendevano questi testi, come dire, classici. Infatti è da qua che inizia la dicotomia tra antico e nuovo, siamo più o meno a questo punto. E qua inizia quindi si formano tre diverse modalità di riannessione intertestuale, come le chiama l'autore. Si tratta del commento, dell'imitazione e della critica, tutte forme che servono a, diciamo, partendo da dei testi preesistenti, ad ampliare la produzione e a costruirci sopra un castello in continua evoluzione. Basti pensare ad esempio a tutta la produzione, diciamo, interna alla Chiesa cattolica, ma non solo, anche protestante e quant'altro, anche nella tradizione rabbinica, tutto quello che venne aggiunto ai testi sacri, la Torah che in seguito venne incrementata, vennero così costituiti i testi sacri del Talmud e altri ancora, ma senza dover andare a impelagarci in questi tra l'altro cui... Noi stiamo sempre citando i testi sacri, però in realtà potenzialmente lo stesso, diciamo parzialmente lo stesso ragionamento può essere fatto anche rispetto a delle ideologie politiche, per esempio, potenzialmente. Cioè, ci sono state delle riedizioni e nuovi e vecchi catechismi, anche se è un po' diverso perché non esiste esattamente lo stesso livello di sacralità, diciamo sacralità forse non è la parola corretta, però tutto sommato. Si potrebbe metterla così. Diciamo che la connessione tra potere e spiritualità, religione, come vogliamo chiamarla, in passato era, nelle civiltà antiche, era molto più forte. La religione non era, diciamo, tanto il fatto di credere in qualcosa al di là della vita terrena, ma era proprio un senso che, comprendeva la sostanza stessa delle persone che venivano assoggettate al potere. Ecco, esatto, diciamo che un po' più, perché sennò effettivamente l'errore che faccio io, che sono un po' una stolta, però che potenzialmente può essere un errore comune, che essendo per noi, beh, a parte per me e te, ma in generale per noi, probabilmente a noi contemporanei, la sfera della religione è comunque una sfera limitata del vivere quotidiano, ognuno di questi ragionamenti può essere pensato, come dire, solo ad un pezzettino, mentre invece noi stiamo spesso parlando anche di popolazioni antiche che avevano un concetto molto più olistico, cioè la religione era in realtà tutto quanto, no? Era molto meno, diciamo, era mistico in un altro modo probabilmente, quindi... In realtà, diciamo, non stiamo parlando solo di catechismo, ecco, mettiamola così. Ecco. Tra l'altro, colgo la palla al balzo appunto per dare un esempio pratico di questa interdipendenza tra ambito religioso e altri ambiti. Stiamo per passare a vedere quello che è il canone, che è la fissazione massima, per così dire, del contenuto della tradizione. Ecco, esatto, infatti era l'elemento a cui volevo proprio arrivare. È un concetto che viene dal, diciamo, dalla sfera del diritto e che in seguito è approdata anche alla sfera diciamo più ampia di tutta la tradizione scritta, quindi siamo già all'interno della coerenza testuale. Se guardiamo ad esempio tra la sfera del diritto e la sfera religiosa, un elemento comune è quello delle prescrizioni. Si parla di prescrizioni che regolano il vivere comune, il vivere in comunità, e tutta una serie di... Cioè, diciamo, è ciò che distingue il buono dal cattivo, il giusto dallo sbagliato, quello che si fa, che si deve fare, quello che non si deve fare, quello che è bello, accettabile, quello che è assolutamente orrendo e inaccettabile. Esatto. Prima di arrivare a questo punto, tuttavia, appunto, come dicevamo, si tratta della trasposizione di un ideale di vincolo, quindi un vincolo che viene imposto a un popolo, un gruppo culturale, una civiltà. Ad esempio, pensiamo alla civiltà ebraica, che diciamo era soggetta a quello che era viene rappresentato come un patto con una divinità. Quindi qui l'elemento giuridico e l'elemento religioso sono strettamente fusi assieme. E questa coincidono. Coincidono, dico. Coincidono. E questa è forse una delle maggiori particolarità di questo caso studio che ho affrontato, tra l'altro, nella mia tesi. Come diceva Chiara prima, il canone è un concetto che crea delle contrapposizioni, degli schemi binari, come ad esempio quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è bello e quello che è brutto, quello che è logico e quello che è illogico, e così via, andando avanti. Si tratta di, come dire, tutta una serie di binarismi che mirano a dare, come dire, un imprinting normativo e formativo, come dice Asman. Normativo perché appunto deve dare delle regole per la vita comunitaria, per la vita delle persone che appartengono a questi gruppi, e formativa perché deve, come dire, formare appunto queste persone, deve dare loro un orientamento sulla base di quella che è la storia preesistente a queste stesse persone. Di conseguenza, come dicevamo, abbiamo il canone è qualcosa che non cambia, è qualcosa che nel tempo si mantiene sempre uguale a se stesso. Poi nel corso della storia ha subito tutta una serie di slittamenti semantici, soprattutto opera della Chiesa cristiana, perché all'inizio, andando con ordine, il canone era un concetto ripreso dall'architettura, era uno strumento che serviva a tenere, diciamo, a verificare che le mattonelle di un muro fossero tenute diritte e parallele tra loro. Questo concetto è stato ripreso da quell'ambito, trasposto appunto nel diritto, nella religione, per appunto indicare la rettitudine, l'attinenza ad un concetto. I canoni estetici anche. I canoni estetici sono le proporzioni, diciamo, fisse, anche quelle in teoria, poi in realtà sono fra le altre che continuano a mutare, diciamo, sono tutte cose che sono fisse fino a che nessuno le cambia, ecco. Poi sono cambiate e sono fisse di nuovo. Però, comunque, effettivamente, per esempio, anche i canoni estetici non sono quelli dell'architettura, ma tutto sommato sono proporzioni di, diciamo, di misure, di aspetti, di forme che sono, diciamo, fra i preferibili e quali invece non lo sono. Esatto. Come dicevo prima, appunto, la Chiesa Cattolica, quando nel IV secolo ha deciso quali fossero i testi fondanti della sua dottrina, ha, diciamo, operato questo slittamento semantico del termine di canone, che è andato a unificare in un unico concetto l'elemento della lista, cioè la lista dei testi sacri, e appunto quello di norma, cioè di lista di testi sacri da seguire alla lettera, perché altrimenti guai, si sprofonda, si arriva nell'eresia, in quella in ciò che è distante dall'ortodossia religiosa. Infatti è proprio questo che alla fine in ogni società, in ogni periodo della storia hanno fatto i canoni, in quanto elementi che non variavano, indicavano che cosa era giusto, cosa era sbagliato e quant'altro, cosa doveva essere, cosa non doveva essere. Questi binarismi sono stati, diciamo, applicati non soltanto agli oggetti, ma anche alle persone. Cosa significa? Significa che tutte le persone che non si attenevano ai canoni di una certa cultura, di una certa religione, di una certa etnia, di un certo modo di vita condiviso in una comunità, queste persone venivano, come dire, in qualche modo, estromesse. Il canone pesava su di loro come un marchio. Ed è ciò che, diciamo, nel corso della storia ha aperto la strada a guerre, ma non soltanto guerre, anche a stermini, a persecuzioni e quant'altro. Anche perché, diciamo la verità, ogni cosa che crea un noi crea anche gli altri, cioè quindi crea sempre tutto ciò che ti crea come tale, in realtà spesso e volentieri crea anche un ciò che non è tale, quindi c'è quello che è giusto, ma c'è anche quello che è sbagliato, quindi c'è anche chi sbaglia e chi esce dalla norma inserimento, quindi questo mi sembra estremamente attuale, santo cielo, però vabbè. Uno molto antico di cui probabilmente viviamo tuttora una cosa è rispetto a come si vive, dove si vive, sotto un tetto, e l'altro rispetto a chi non vive sotto a un tetto, diciamo, stabile, ha creato un altri, cioè la comunità nomade da praticamente sempre è stato decisamente poco e norme inserite in un sacco di altre popolazioni, no? Quindi. Esatto. Come lamenta tra l'altro Assmann, l'umanità non è ancora riuscita a liberarsi da un orizzonte culturale fatto di valori normativi e informativi, quindi di canoni dai quali dipendere sulla poter operare le proprie scelte. E questa è, insomma, è un po' la domanda che lui lascia in sospeso e che rimane un po' in sospeso anche a me, penso anche a voi, cioè che, insomma, avremo sempre bisogno di regole per poter vivere le nostre esistenze, oppure, insomma, è un discorso molto difficile, qua sprofondiamo nella filosofia, quindi mi trattengo, ecco, rimane Anche solo. se, evidentemente, come dire, è proprio il motivo per cui è tanto poi interessante parlare di una cosa del genere, no? Che effettivamente, come dire, si attacca poi a tutti gli ambiti dell'esistente e quindi ci sono mille domande che rimangono aperte. E quindi, niente, appunto, come procedere a questo punto? Beh, io passerei un po' ad analizzare appunto il discorso dell'identità, ma non so se vogliamo ascoltare qualcosa nel frattempo o. Allora, potremmo ascoltare qualcosa nel frattempo? In realtà non abbiamo pronto niente, ma io confido nel fatto che invece la mia sapiente regia abbia già una proposta per noi, quindi tu non lo sai, ma sullo schermo è appena comparso il Bill, un B-Real e un DJ Mags, e direi che a questo punto andremo ad ascoltare questa traccia per interrompere un attimo le nostre chiacchiere e torniamo poi sul concetto di identità. Sembra un'ottima idea. I'm like a Viking in the submarine, I'm a Spartan with guns and beams. Mugs and memes, like giving hard drugs to fiends. I'll be the cause of this prison riot. Sworn of the Israelites, torture you with kitchen knives, caught you in the pistol fight. I saw prophets torn from the fist of Christ. Propaganda brainwashes us to make us think this is right. I stick my finger in the dike, plug the leak while she suck the teeth. Look into the light, such as life. So when I hold the mic, fighting day and night, might catch your case, see you in my sights. Let my heater make it change your face, make it change your ways, wishing you can change your days. The venom we spit, cut your throat like a razor blade. They got hell to pay, me I got hell to raise. Look death in the eye, he said you got a stellar gaze. He went on his way, but he got stuck in the maze, without any way to get out of this purple evacuate haze. Evacuate the place, born an angel, amputated saint. Trapped on a cannibal planet of hate, gang grenaded is their fate. Activate the tape, calculate the weight, single handed with the cannon in their face. Evacuate the place, born an angel, amputated saint. Trapped on a cannibal planet of hate, gang grenaded is their fate. Activate the tape, calculate the weight, single handed with the cannon in their face. Abandon all hope, buy more weapons and more coke. Build yourself a bunker under your house, it's all over. But before the CIA come to take us away, light up some OG, good should take us out in the blaze. Abandon all hope, buy more weapons and more coke. Build yourself a bunker under your house, it's all over. But before the CIA come to take us away, light up some OG, good should take us out in the blaze. I ate some brownies last week and I've been high for days. Should've known Be Real was the guy with the train. Cheech and Chong's lips twist up an entire eight. It won't freeze your nose, the shit'll set fire to your face. We get higher in the place, still my eyes are clean. I'm the man in all black with the hashish sheen. So many bags of green, candy constantly. Got a crew so thick, man, we causing a scene. We try to hit it, the very moment I lit it. You shit at your pants, coughing out your lungs, bitch, quit it. We got the greenery and the heavy machinery. Your life don't mean a thing to me, bitch, enjoy the scenery. Evacuate the place, born an angel, amputated saint. Trapped on a cannibal planet of hate, gang related is their fate. Activate the tape, calculate the weight, single handed with the cannon in their face. Evacuate the place, born an angel, amputated saint. Trapped on a cannibal planet of hate, gang related is their fate. Activate the tape, calculate the weight, single handed with the cannon in their face. È appena finita Amputated Saint. Avete sentito Il Bill e Be Real su produzione di DJ Max. E siamo tornati con il buon Pulsar, il buon Dottor Pulsar. E tra l'altro, per ascoltarvi l'ultimo album di Il Bill, La Bella Medusa, perché c'è dei featuring della Madonna, delle produzioni divine. E vabbè, insomma, Il Bill non è che devo presentarlo, esatto, io. No. Comunque, Il Bill era già abbastanza una garanzia, ma se lo propsa Pulsar, ascoltatelo tutti, perché di solito spinge sempre ottima musica. A questo punto io direi siamo, diciamo, tornati e torniamo al punto di, diciamo, un po' d'arrivo di questa nostra conversazione, che, diciamo, arriva poi abbastanza naturalmente dopo aver parlato di come questa normatizzazione e questa canonizzazione di ciò che va bene e di ciò che non va bene ha, come dire, cosa scaturisce poi da il fissarsi di ognuno di questi to do e not to. Per articolarla un attimo meglio, c'è da dire che questo cosa devo fare e cosa non devo fare ha bisogno di una dimensione che mi orienti nella scelta. Una di queste dimensioni, anzi forse la più importante e fondamentale, è quella appunto dell'appartenenza, del far parte di un gruppo. Cos'è che mi permette di far parte di un gruppo, di condividere l'universo, diciamo, per meglio dire, l'orizzonte culturale, l'orizzonte simbolico di uno stesso gruppo, che mi permette quindi di coordinarmi con esso muovendomi nella realtà, comunicando con la realtà attraverso di questa realtà, vabbè, insomma, esatto. Fare con questo gruppo l'identità, signori miei, signore mie. Esattamente, infatti qua a questo punto arriviamo, cioè a la creazione a questo punto di un'identità, quindi qualcosa che dice che tu sei intanto sì, un io, un noi e non un altro, e non un altro. Però prima di arrivare a quello, infatti, bisogna tenere presente che l'identità è, diciamo, la riflessione inconscia di un'immagine diciamo a livello individuale e a livello collettivo. A livello individuale ovviamente ha una sua base neuronale, mentre a livello collettivo ha una sua base nella cultura. Andiamo a vedere questo fenomeno un po' più da vicino. Appunto, parliamo di un'identità individuale, un'identità collettiva, però Assmann trova più utile, ai fini della sua analisi, distinguere tra un io personale e un io individuale. L'io individuale consiste nella coscienza dei propri bisogni, della propria fisicità. C'ho fame. Quindi... Sì, per esempio. C'ho fame, per esempio. Mentre l'identità personale è la coscienza del proprio ruolo all'interno di un gruppo, di una società, e quindi tutti gli aspetti, diciamo, che partendo da noi si interrelano con questa società. Quindi entrambi questi aspetti vengono, diciamo, mediati da uno stesso universo, uno stesso immaginario, uno stesso linguaggio, valori, norme, relativa appunto ad una cultura di un certo luogo, di un certo tempo. Tuttavia, secondo Assmann, all'interno di uno stesso gruppo non è possibile sviluppare un'identità collettiva. Questo perché? Perché l'identità collettiva si può formare soltanto attraverso il contatto con altri gruppi, con altre culture, con altre civiltà. Insomma, per avere coscienza della propria collettività bisogna avere coscienza del fatto che esistano altre collettività, così come per avere coscienza della propria unicità bisogna avere coscienza della propria collettività. Diciamo, sono dei livelli diversi che tra loro si interrelano reciprocamente. Quindi è tutta una serie di immagini che si riflettono tra loro. All'interno le culture sono fatte di una trama di affermazioni e negazioni che tuttavia dipendono da una serie di regole e significati impliciti che restano nascosti proprio perché non sono modificabili. Perché non sono modificabili? Perché le culture sono quello che permettono alle persone appunto di abitare il mondo concreto, mediandolo simbolicamente, come dice lo stesso Assmann. È quello che secondo lui gli animali colmano con l'istinto, mentre noi lo colmiamo con la cultura. E tuttavia, invece, non è tanto percepita, tuttavia, la cultura come qualcosa che riempie uno spazio, ma viene percepita come un superamento di uno stato di natura. Il fatto di ottenere uno spazio di riflessione, come appunto ritorniamo alla riflessione delle immagini, uno spazio di riflessione all'interno del quale poter, diciamo, mediare i propri bisogni, non cercare di inseguirli acriticamente, tipo ho fame, mi mangio la prima persona che vedo vicino a me, tipo, insomma, per fare un esempio. Prendendo coscienza dell'universo simbolico che mi circonda e riuscendo a interagire con le persone del mio gruppo, riesco a mediare questo bisogno e quindi a ottenere fiducia in me stesso e nell'altro. E quindi liberandomi da tutta una serie di istinti che invece sono tipici appunto degli animali. Quindi all'interno di questi stessi universi simbolici condivisi, Assmann, questi universi simbolici condivisi, o meglio sistemi simbolici condivisi, egli li chiama formazioni culturali. E queste formazioni culturali che appunto veicolano il senso, il significato delle società, vengono paragonati da Assmann all'interazione tra le cellule mobili e quelle fisse negli organismi, che interagendo tra loro collaborano per riprodurre una coerenza e un'integrità sistemica. E qui torniamo anche al concetto di coerenza, peraltro. Esattamente. Quindi, tra l'altro neanche lui, ma antropologi come Moss e Salins parlarono di alcune di queste forme di circolazione del senso più diffuse, che sono appunto la lingua, l'economia e la parentela. Per fare un esempio, da vari studi antropologici è saltato fuori che il dono in certe società è un vero e proprio meccanismo fatto di interdipendenze e di obbligazioni reciproche che tengono coese e unite le famiglie e i gruppi che fanno parte di questo più grande gruppo culturale. Assolutamente sì. Lo ben ricordo, e effettivamente ci sono degli studi molto interessanti, soprattutto su alcune isole del, se non erro, della zona papuasica, probabilmente, in cui effettivamente il dono rappresenta il ciclo degli scambi commerciali e l'interruzione o l'inserimento di un elemento all'interno di questo cerchio del dono fa sì che si interrompano delle tradizioni economiche anche di lunga data. Ed effettivamente, in realtà, a suo modo avevamo anche parlato, visto che parlavamo di famiglia prima la volta scorsa, e quindi non lo ridiremo, ma avevamo parlato anche di come la genealogia crei un posto, un ruolo che un individuo ha all'interno di una società, e questo sia assolutamente, come dire, cioè la potenza di ognuna di queste cose è che prescindono dalla coscienza, cioè sono talmente insiti, no? Ognuna di queste rappresentazioni simboliche nel nostro modo di agire, che effettivamente, cioè, sono al posto dell'istinto, ma tutto sommato lo sono in maniera con altrettanta efficacia, cioè ognuna di queste cose arriva immediatamente, cioè noi sappiamo, nel momento in cui vediamo una cosa, sappiamo esattamente tutto ciò che rappresenta per noi, come dire, in un battito di ciglia. Cioè, se io vedo una determinata, non so, la croce per strada, so che è una farmacia e lo so per tutta una serie di simbologie, ma non devo pensare 25 minuti a questa cosa, senza parlare di quelle a cui stavi facendo riferimento tu, che evidentemente sono ancora più, generali, piuttosto che la mia banale farmacia, però per dire, sono tutte cose che effettivamente funzionano in maniera immediata, no? Giusto? Assolutamente. Sì, appunto, potremmo dire, per continuare questo discorso dell'identità, che Assmann individua, una struttura di base dell'identità. Ovviamente si tratta di un modello astratto per illustrare una serie di casistiche reali, una struttura di base dell'identità che è fatta da una certa congruenza tra formazioni etniche, politiche e culturali. Cosa significa? Significa che, ad esempio, ci troviamo in uno stato magari non dotato delle istituzioni moderne come quelli in cui viviamo al giorno d'oggi, sono formate da una certa omogeneità culturale, piuttosto che etnica, piuttosto che religiosa. E quindi si tratta di una struttura stabile. In questo contesto l'identità si può formare, in maniera abbastanza automatica, o meglio, l'identità personale, nella relazione con gli altri membri della nostra comunità. perché diciamo tutto quello che ci circonda è l'unico, come dicevamo prima, l'unico universo, l'unico orizzonte di senso possibile in questo mondo, in questa umanità. Quindi alla rottura di questo equilibrio, alla rottura di questo equilibrio etnico, politico, culturale, quindi ad esempio mettiamo che lo stato in cui viviamo si potenzia, si allarga e diciamo conquista delle popolazioni adiacenti alla nostra, magari un po' differenti, quindi si allarga e avviene un'intensificazione, così la definisce Assmann, della struttura di base dell'identità in senso integrativo. Cosa significa? Significa che allargandosi questo contesto culturale è fatto ora da una cultura dominante che ne sottomette delle altre, sottomette altre culture. Ora questa cultura non deve soltanto permettere a tutte le identità individuali di sviluppare la loro identità personale, ma deve fare in modo da ricomprendere al loro interno tutte queste altre formazioni culturali, imponendosi al di sopra di loro. In questa situazione si ha quindi una cultura intensificata in senso integrativo, più alta rispetto ad altre formazioni culturali che magari vengono viste più come selvagge, cioè come, diciamo, visto che sono state sottomesse, sono state sconfitte, quella, la cultura di partenza che ha imposto il proprio dominio è quella più alta, più meritevole, certo, di essere... Quella gerarchicamente, diciamo, superiore, ecco. Esatto. Infatti, se guardiamo ad una serie di esempi storici, come ad esempio, le piramidi egizie della quarta dinastia, piuttosto che il mausoleo di Lenin a Mosca, l'autore sostenne che questo movimento, diciamo, culturale tendesse verso il grande, il grosso, e quindi si oggettivasse in queste opere monumentali proprio per indicare un'agglomerazione di culture più grande. Abbiamo anche ad esempio un esempio tratto dalla Bibbia che riguarda la costruzione della Torre di Babele, da un passo della Genesi: venite, fabbrichiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, facciamoci così un nome per non disperderci sulla faccia della terra. Che cosa indica questa frase? Fabbrichiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, quindi un'opera grandiosa, enorme. Facciamoci così un nome. Il nome, che cos'è? Il simbolo dell'identità. L'identità, certo. L'identità culturale, dell'identità etnopolitica che si viene a costruire. Per non disperderci sulla faccia della terra, cioè per evitare che ci dissolviamo, che quello che abbiamo costruito che si possa... perda l'unità. Esatto. Quindi questo, diciamo, questa coscienza culturale che si viene a formare è più grande di quella preesistente. Tra l'altro, come dicevamo prima, le culture sono fatte di affermazioni e negazioni che tengono nascoste le regole che, diciamo, presiedono a tutte queste affermazioni e negazioni. Tuttavia, in un contesto intensificato, diventa possibile affrontare criticamente questi contenuti. Diventa possibile tematizzare questi contenuti che diventano espliciti, proprio perché si ha un allargamento della formazione culturale. Questi elementi diventano, è lampante, e quindi diventa possibile tematizzarli, diventa possibile lavorarci sopra e a lungo andare cambiarli, proprio perché, ad esempio, prendiamo l'impero romano ha assorbito tutte le civiltà che ha conquistato, ne ha assorbito la cultura, non le ha annientate, ma le ha ricomprese al loro interno e si è fatto forte di esse per poter ampliare la propria formazione culturale. Di conseguenza, quelli che erano i suoi tratti distintivi si sono andati perdendo. Basti pensare al cristianesimo, che è stato diventato religione di Stato dopo essere stato per secoli represso e perseguitato dai sostenitori dei culti che noi oggi chiamiamo pagani, dei culti che venivano definiti pagani, ecco. Beh, anche noi oggi un po' li definiamo così. No, scherzo. Anche noi oggi li definiamo un po' così, ma con una certa simpatia, probabilmente a differenza. E, niente, io sono stregata da questa cosa. E, effettivamente è anche interessante, tu lo citi a un certo punto, non so se lo volevi citare adesso, ma io lo cito lo stesso, come in tutto questo la lingua sia uno strumento abbastanza centrale, nel senso che indubbiamente ognuna di queste trasmissioni non può che essere fatta attraverso uno scambio, una relazione reciproca che prevede evidentemente di essere... di mettere appunto in relazione due persone, che quindi queste due persone quantomeno debbano avere un linguaggio comune per parlarsi. Ed effettivamente, come dire, molto spesso molti popoli si sono chiamati, prendevano il loro nome dalla lingua, cioè coloro che parlavano la lingua tot, penso, diciamo, a parecchi, e viceversa anche quelli che non parlavano la lingua. Penso, mi è venuto in mente in questo momento all'impero romano di cui sta facendo riferimento, ma in realtà mi veniva più in mente ai barbari, che erano quelli che parlavano strano, no? Cioè quelli che non parlavano la tua lingua. Ma per esempio il popolo basco, a cui noi siamo tanto affezionati, che è il popolo euskera, sono, diciamo, quelli che parlano il basco, cioè il significato del termine è esattamente questo. Quindi in realtà secondo me anche questo non è casuale. Io non so se tu voglia proseguire o se dare spazio a, come dire, un contributo mio solito semiserio, nel senso che a breve vorrò come dire riportare due esempi di narrazioni fra loro un po' diverse, per quanto della stessa, diciamo, degli stessi miti fondanti, delle stesse storie e identità di popolo. Però non so se vogliamo proseguire e farlo dopo. Dimmi tu. Secondo me ha senso vedere un attimo l'altro caso di intensificazione della struttura di base dell'identità. Ecco, esatto. Che quella che abbiamo descritto finora era quella integrativa. Seconda, che è quella distintiva, magari giusto per far capire di che cosa stiamo parlando. Esatto. Si tratta di una forma di intensificazione che si può avere anche all'interno di uno stesso gruppo culturale, di una stessa civiltà, di una stessa cultura, di una stessa società, che può correre lungo diverse linee. Ad esempio, si può avere una distinzione tra un'elite colta e le masse illetterate, la massa produttiva. A volte c'è questa distinzione magari tra una cultura alta e una cultura bassa, invece ci sono casi in cui invece... ho detto troppi invece in una stessa frase. Vabbè, ma va benissimo. In cui l'elite colta è l'unica a detenere la cultura, e invece i ceti popolari, il popolo rosso, basso, è soggetto a questa cultura, diciamo, in una maniera un po', come posso dire, imperialista, colonialista, nel senso che vengono tematizzati dalle stesse classi superiori, che in questo modo possono attribuire i loro significati che desiderano. Ad esempio, possono tematizzare queste classi rendendole oggetto di istanze etiche, come la beneficenza, come l'assistenza. E quindi si apre un movimento, ad esempio, dal centro alla periferia. Si tratta di un fenomeno che può essere osservabile anche attraverso un livello pure, diciamo, geografico. Sociale. Sì, ci sono. Asman introduce pure delle distinzioni tra una cultura rappresentativa ed una esclusiva. Ad esempio, una cultura elitaria esclusiva implica una ripartizione su strati, orientata non non verso il basso, ma lateralmente lungo le stesse linee di ceto. Questo significa che, ad esempio, un nobile austriaco avrà più di che spartire con un nobile francese piuttosto che, con un popolano. Certo. Ma scusa, io volevo fare un mini salto indietro, ma che in realtà c'entra con questo. È la stessa logica che muove potenzialmente la cultura dello strato subalterno, invece, perché qua, come ben sai, insomma, cioè, tutto il movimento di riconoscimento della classe sociale, del proletariato, nel marxismo, eccetera, eccetera, cioè la creazione di un soggetto collettivo può essere anche non dell'elite, ma della... Quindi se è vero che un duca francese ha più a che spartire con un duca tedesco che non con un popolano francese, è anche vero che un popolano francese può arrivare a conoscere, a sapersi più vicino ad un popolano tedesco che non al suo duca francese? Assolutamente. C'è da notare tuttavia che Assmann non propone questa analisi in questi termini, nel senso che il marxismo, ad esempio, viene da lui presentato come una forma di ricanonizzazione, okay, cioè come un fenomeno di fissazione di regole, di concetti che vengono mantenuti uguali a se stessi nel corso del tempo e che appunto sì, stabiliscono una differenziazione tra un noi ed un loro. Tuttavia quella che stiamo analizzando in questo momento è una distinzione tra diciamo membri di uno stesso gruppo culturale che spesso non coincide con un gruppo economico. Infatti la mia tesi poi si basa soprattutto forse avrei dovuto dirlo prima, sulla costruzione culturale dell'identità etnica. Quindi parliamo soprattutto di questo fenomeno ad un piano più di etnia, e quindi per questo motivo stiamo affrontando questi casi di studio. Il fenomeno dell'intensificazione in senso integrativo e in senso distintivo si addice particolarmente a quelli che sono i moderni stati-nazione, certo, ma anche i regni del passato. Mentre magari per il fenomeno della lotta di classe, piuttosto che per altri fenomeni simili, potrebbero essere più utili altri strumenti. Altri autori. Sì, anche altri autori, ovviamente. Quindi diciamo che questo... mentre invece, come dicevamo... la distinzione tra una cultura elitaria rappresentativa e una esclusiva, vedeva appunto, se abbiamo detto quella rappresentativa vedeva la possibilità che un nobile svedese si trovasse meglio con un nobile francese piuttosto che con un popolano della sua stessa nazione, invece la cultura elitaria esclusiva vede la distribuzione di una stessa cultura etnica lungo tutte le sue linee di classe. Prendiamo ad esempio l'impero cinese. La cultura dell'impero cinese veniva estesa a tutti gli strati della popolazione e questo faceva in modo, come dicevamo, che tutti gli elementi propri di questa cultura divenissero espliciti e tematizzabili. Questo ha comportato, tra l'altro, un fenomeno che è stato analizzato anche da molti storici, cioè il fatto che molti conquistatori dell'impero cinese si sono a loro volta sinizzati, cioè sono diventati essi stessi, dopo aver conquistato l'impero, sono diventati essi stessi continuatori di quello che era l'impero. Questo proprio perché erano espliciti i tratti di quella cultura e in modo tale avevano una forza di assorbimento molto forte rispetto invece alle culture di provenienza dei conquistatori. Tuttavia, secondo l'autore, queste due forme di intensificazione, integrativa e distintiva, secondo lui erano parte di uno stesso fenomeno. C'è una sua citazione che è molto esemplificativa. Cioè, nel produrre identità all'interno, la cultura istituisce estraneità verso l'esterno. sono due fenomeni che sono che interdipendenti. Certo, sono i due, diciamo, le due facce di una medaglia, no? Esattamente. E quindi abbiamo tuttavia delle due categorie che sono utili all'analisi di una serie di fenomeni differenti tra loro, come ad esempio dei movimenti di resistenza periferici rispetto al centro, piuttosto che di un elitismo dei ceti superiori contrapposto alla cultura delle classi popolari. Tuttavia, se ci spostiamo da queste situazioni appunto di elitismo ad una visione più d'insieme delle culture, delle formazioni culturali, abbiamo una coscienza del noi che appunto tende ad ammantare di questa sostanza tutti gli individui, tutti i membri di questi grandi gruppi. Ad esempio questo è assolutamente vero nel caso dell'antico Israele, dove l'identità e la persistenza etnica sono una questione che riguarda la memoria culturale e la sua forma di organizzazione, come diceva appunto Asman, nel senso che questa identità ebraica è stata mantenuta viva attraverso la redazione e la canonizzazione di questi testi sacri, che poi in seguito alla deportazione delle tribù di Israele, prima dopo il crollo del regno di Giuda nell'impero degli Assiri, no, a Babilonia, scusate, e in seguito dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme opera dell'impero romano, attraverso la costruzione di questi testi, la loro identità è stata veicolata all'esterno, è sopravvissuta alla distruzione materiale degli elementi della loro cultura. Il Deuteronomio in questo ha un ruolo abbastanza fondamentale. Correggimi se sbaglio. È come se fosse un manifesto costituente di un popolo, proprio perché unisce l'elemento religioso e l'elemento del diritto, e li rende, come dire, si parla di un'unica cosa, un popolo che ha stretto un patto con Dio. Non è semplicemente un popolo con una sua religione, ma è un popolo che è fatto di religione. E questo è ciò che distingue poi la potenza o meno dell'identità di un popolo. Quindi il fatto che qualche popolo viva con una, diciamo, particolare potenza, con un particolare impatto nella propria vita, la propria identità come tale, è anche dato dalla forza e dalla capacità di questa identità di permeare, no, ogni tratto del vivente, dell'esistente. Infatti io avevo tirato giù una frase dalla tua tesi, non so se fosse tua, forse era una cheat anche questa, ma che mi aveva effettivamente colpito, che era quella secondo cui l'identità e la persistenza etnica sono una questione che riguarda la memoria culturale e la sua forma di organizzazione, quindi quanto e in che, con che impatto, no, questa memoria culturale riesce ad essere poi stratificata e permeante. Giusto? Ho detto giusto? Esatto. Proprio perché, come diceva Asman all'inizio, ogni civiltà veicola i suoi significati e ricorda in modo differente quelle che, diciamo, ricordano in maniera più lunga nel tempo, in maniera più intensa, che sono in grado di ricordare i loro membri con maggior impatto, la loro essenza, sono quelli che hanno costruito dei medium particolarmente efficaci, ad esempio nell'evitare la distruzione, come i testi sacri che sono dell'ebraismo, che sono sopravvissuti alla distruzione dei tempi, degli elementi, diciamo, materiali della loro cultura. Poi quello appunto degli ebrei è un caso di studio, un altro è quello ad esempio dell'antico Egitto, che la cui cultura, la cui formazione culturale non è giunta fino a noi perché il medium che essi hanno scelto, cioè non i testi sacri, ma nel loro caso dei monumenti come le piramidi e i grandi templi, sono col passare del tempo divenuti inspiegabili, soprattutto la forma di scrittura e i geroglifici che hanno sviluppato sono sprofondati nell'oblio e il loro significato è stato recuperato soltanto quando questa civiltà veniva studiata in termini scientifici e non più perché ci fosse una comunità che cercasse di recuperare questo senso per perpetuarlo nuovamente, ecco. Certo, ed effettivamente qua, ahimè, torniamo nel discorso della lingua, però effettivamente è anche questo è rilevante, no? Quando abbiamo perso diciamo la possibilità, quando quel popolo ha perso la possibilità di rileggere, di ricomprendere tutta la simbologia e tutta l'identità che stava dietro ad ognuno di questi enormi monumenti, enormi simboli di pietra, è diventato il momento in cui si è perso poi di fatto questo pezzo di identità, giusto? Mentre invece, per esempio, appunto abbiamo fatto il caso di Israele, ma in realtà forse quello di Israele è il più, effettivamente era particolarmente forte, la riattualizzazione e anche forse un po' la ripetitività di tutta una serie di elementi, e forse torniamo anche ai riti, però ognuna di queste cose ha permesso, no, che la cultura, che la memoria culturale si riproponesse e andasse poi a generare un'identità. Ora io non so se sei d'accordo, ma fermerei un attimo la chiacchiera e lo farei nella maniera che raccontavo prima, e cioè mi sono divertita a vedere come in realtà come dire, l'identità di uno stesso popolo, che è il popolo scozzese, a distanza di un paio di secoli venga letta da alcuni suoi membri in maniera completamente diversa. Quindi in realtà la prima cosa che faremo partire adesso è un discorso abbastanza epico della storia della cinematografia, lo fa un allora abbastanza giovane Mel Gibson, ed è il discorso finale che fa prima della battaglia di Braveheart, e quindi il condottiero, no, ricorda alla sua popolazione, al suo esercito, perché sta combattendo, no? E adesso lo facciamo partire e poi lo mettiamo, diciamo, poi ne facciamo partire un altro decisamente successivo, magari poi diciamo che cos'è dopo, perché secondo me è abbastanza il contrasto è abbastanza stridente, quindi adesso lo mettiamo. È William Wallace? Non può essere. Wallace è più alto. L'onnipotente dice che sarà una grandiosa battaglia. Il fiorfiore di Scozia vi partecipa. Attendo il tuo saluto. Per la vostra presenza su questo campo di battaglia, io vi ringrazio. Questo è il nostro esercito. Per unirti ad esso devi porgere omaggio. Io porgo omaggio alla Scozia. E se questo esercito è vostro, perché se ne sta andando? Non siamo venuti a combattere per loro. A casa! Gli inglesi sono più di noi. Figli di Scozia! Io sono William Wallace. William Wallace è alto 2 metri. Sì, l'ho sentito dire. E uccide i nemici a centinaia. E se ora fosse qui, distruggerebbe gli inglesi con palle di fuoco dagli occhi e fulmini davanti dal culo. Sono io, William Wallace. E ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti. Decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi. E uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete? No, non combatterò. Contro quelli? No. Fuggiremo e resteremo vivi. Certo, chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Alba! Adesso facciamo una passeggiata. Cosa? Una passeggiata. Dove? Là. Ma dici sul serio? Che cosa aspettate? Tommy, non è una cosa normale. Sono i grandi spazi questi. C'è l'aria fresca. Guarda, Tommy, sappiamo che ti va di cacca con Lizzie, ma scusa tanto, non c'è bisogno di rifartela su di noi. Non vi sentite orgogliosi di essere scozzesi? È una merda essere scozzesi! Siamo il peggio del peggio! La feccia di questa cazzo di terra! I più disgraziati, miserabili, servili, patetici avanzi che siano mai stati cagati nella civiltà. Ci sono quelli che odiano gli inglesi, io no, sono solo delle mezze seghe. D'altra parte noi siamo stati colonizzati da mezze seghe. Non troviamo neanche una cultura decente da cui farci colonizzare. Siamo governati da palle mosce. Noi siamo in una situazione di merda, Tommy, e tutta l'aria fresca del mondo non potrà cambiare uno stracazzo di niente. Scusa, bello, scusa. No, scusa tu, Tommy, che immaginava che sarebbe come successo? Come fate a non capire che è questa la vera? E fu più o meno in quel momento che Spud, Sick Boy e io prendemmo la sana, motivata e democratica decisione di tornare all'eroina al più presto. Ed ecco, questi erano, come dire, due scorci diversi di cultura scozzese. E il primo, abbiamo detto, arrivava da Braveheart, il secondo in realtà arrivava da... un altro cult, diciamo, per quanto diverso probabilmente, che è Trainspotting. E a questo punto ci stiamo avvicinando alla fine, direi, e facciamo un, diciamo, un ultimo piccolo scorcio su, sulla cultura, e poi direi ci salutiamo a questo punto. Esatto, come dicevamo prima, appunto, l'identità e la persistenza etnica sono una questione che riguarda la memoria culturale e la sua forma di organizzazione. Teniamo presente che nel corso del tempo l'organizzazione appunto delle memorie culturali è stata influenzata dai cambiamenti nella tecnologia attraverso cui la cultura veniva trasmessa, quindi la scrittura come sistema di codificazione, piuttosto che i mezzi attraverso i quali veniva fatto circolare il senso, quindi la stampa, la radio, la televisione, tutti elementi che hanno cambiato quindi i modi attraverso i quali la memoria culturale ha tenuto coese le società nelle quali si manifestava. Infatti, se, non a caso, le rivoluzioni tecnologiche hanno fatto sì che si verificassero le forme di intensificazione di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi, ad esempio, l'invenzione della scrittura ha agevolato poi la formazione delle grandi civiltà antiche, mentre invece la stampa verso la fine del Medioevo è stato uno strumento potentissimo per lo sviluppo e il modello dello Stato nazionale dell'Europa moderna. Quindi questi fenomeni provengono da tutta una serie di concause, tuttavia sicuramente i modelli di trasmissione della memoria culturale sono un fenomeno determinante nel dargli i natali. Tutto questo per dire che la potenza di uno strumento come radio di ZM è assolutamente da non sottovalutare. Esatto. E con questo io direi che dopo essere riusciti a fare i props alla radio, dopo tutto un discorso che c'entrava fino a un certo punto, ma siamo arrivati alla conclusione, direi. Io ringrazierei il buon Pro de Pulsar per ognuna di queste due gloriose puntate che ormai volgono al termine, e lo ringrazio, è stato molto divertente, è stato molto interessante. No, grazie a voi raga, è una bomba, dai, speriamo di farne altre. Esattamente, sicuramente. Allora, ciao buon Pulsar, ciao buon Gigi. Ciao Pulsauro, ciao. Ciao raga, bella ciao, Gigi. Ciao, è stato un bella piacere. Buona serata. Tutto quanto, io. E a questo punto, niente, noi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Ginnastica per Sale d'Attesa. Ciao.